anche se è vista trasfusione anche la, come la situazione dei disabili, come mai siete così luttuosi in questa vostra fase di manifestazione? Sì, perché vogliamo rappresentare soprattutto quello che è già successo nella storia, non ce la dobbiamo dimenticare, il progetto di quattro che portò i disabili al massacro prima dell'olocausto è stato avviato proprio sulla base delle stesse prerogative, ovvero una grave crisi economica e il definire i disabili soggetti improduttivi. Cominciò così e furono tutti sterminati. Questa la testimonianza veramente secca e assolutamente chiara di qual è il sentimento di questo specifico settore. Potremmo poi continuare più tardi, qui il corteo continua a defluire tranquillo verso valle, insomma immaginiamo che... Perfetto, allora ci sentiamo fra un altro po', se ti va facci lo squillo, se no ti richiamiamo noi dopo, allora, va bene? D'accordo. Grazie mille. E allora... Avete avuto modo di ascoltare quest'altra corrispondenza? Sappiamo che la qualità audio è ogni tanto un po' inficiata anche dai nostri simpatici elicotteri che ci girano sopra la testa. Vi lasciamo un altro po' di musica e a breve avremo un'altra corrispondenza sempre da chi è arrivato dal Sud Italia. Buon ascolto a tutte e a tutti.